Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Noi vogliamo raccontare, attraverso i fatti di cronaca che avvengono in tutto il mondo, come la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se il problema è che vogliamo ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 727, parleremo del rito dei botti di Capodanno attraverso alcuni fatti di cronaca che ci sembrano significativi. Parleremo della legge sulla caccia, una proposta di legge che avrebbe consegnato ai sedicenni la possibilità di sparare, di andare a caccia con i fucili in mano, che è stata per fortuna ritirata, sventata. Torna questa settimana la rubrica di cinema curata da Emilio Maggio con la recensione di un film imperdibile. E infine dedicheremo la nostra ricetta della settimana, una ricetta vegan cruelty free, alla Befana, un personaggio che ci piace tantissimo. Anche il montaggio musicale sarà curato da Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia entra anche dai vetri. A Berlino non penso mai, sì, si può vivere, non sogno mai. Ah, Berlino, che giorno è? Guardo le strade e non so che giorno. Si è appena inaugurato il nuovo anno e siamo, come ogni inizio di gennaio, a contare le vittime dei cosiddetti festeggiamenti. Le festività umane sono una tragedia per il mondo animale, a partire dall'impennata dei consumi alimentari di carni e altri derivati animali, perché nelle feste comandate tendiamo a eccedere a tavola e non pensiamo alle conseguenze che hanno le nostre scelte alimentari sulle vite delle altre specie viventi. Ma quest'anno ci vogliamo concentrare su un altro deplorevole aspetto, quello dei botti di Capodanno, che noi abbiamo sempre ritenuto un atto di prepotenza verso qualsiasi altro vivente non umano, e chiunque abbia un cane o un gatto sa bene cosa stiamo dicendo, perché conosce il terrore che patiscono questi animali la notte di Capodanno. Inoltre quest'anno, va detto, è stato particolarmente insopportabile anche per noi umani dover subire quelle esplosioni mentre tanti paesi nel mondo sono in guerra e un luogo del mondo, in particolare la Palestina, è bombardata in modo serrato e spietato. Manca di tutto e alla fame, la sua popolazione è costretta a evacuare perché le case sono distrutte dai bombardamenti. Ecco, ci sembra particolarmente di cattivo gusto e anche stupido che qui, un posto relativamente fortunato nel mondo perché noi abbiamo il tetto sulla testa, ecco, come sia possibile divertirsi simulando quel rumore, quell'angoscioso boato, quell'odore acre, quel fumo irrespirabile. Inizieremo dunque la puntata con tre notizie che ci sembrano significative per raccontare l'assurdo, secondo noi criminale ma anche masochistico, rito dei botti di Capodanno. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché, perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Io Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica senza pietà, ma cretino e poi viva Roma, che ne sa. La Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, ha divulgato un comunicato sull'aumento drammatico del bilancio di vittime e feriti di Capodanno. ANSA ha rilanciato in questi giorni questa notizia alla luce degli ultimi dati forniti dal Dipartimento di Sicurezza. Un aggiornamento quindi delle conseguenze di quelli che vengono chiamati i botti di fine anno. Tra il 2012 e il 2024 si sono registrati in totale in Italia 7 morti e 3.494 feriti gravi a causa di petardi, fuochi d'artificio e proiettili vaganti utilizzati nella notte di Capodanno. Naturalmente non sono solo gli esseri umani a subire le conseguenze dei botti, si stima che nell'ultima notte dell'anno siano circa 5.000, ma è sicuramente sottostimata questa cifra, tra domestici e selvatici che perdono la vita per cause dirette e indirette riconducibili a petardi e vari altri materiali esplodenti. C'è poi la questione ambientale, considerando che i botti di fine anno generano una impennata dell'inquinamento dell'aria. Durante l'anno i fuochi d'artificio sono responsabili di circa il 6% di PM10 presente nelle città italiane. Ma nella notte di Capodanno, nella sola notte di Capodanno, le polveri sottili registrano un incremento abnorme, raggiungendo valori medi su 24 ore, quasi tripli rispetto al normale limite giornaliero, che è fissato a 50 microgrammi per metro cubo. Pensate, si raggiunge un livello pari a 1000 microgrammi per metro cubo nella prima ora dopo la mezzanotte, con un aumento del più 1900% rispetto ai valori massimi di legge. Botti, petardi ed esplodenti, oltre alle polveri sottili, rilasciano in atmosfera parecchie diossine, cioè sostanze potenzialmente cancerogene. Continua così il comunicato che ha diffuso SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. Prendendo in esame una singola città di medie dimensioni, insomma i fuochi d'artificio esplosi nella sola notte di Capodanno possono arrivare a produrre emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali, pensate, di 120 inceneritori di rifiuti. Le sostanze liberate in atmosfera possono inoltre ricadere al suolo sotto forma di pioggia acida, inquinando terreni, raccolti, laghi, fiumi e persino falde acquifere. Non bisogna poi dimenticare l'ingente quantità di rifiuti che viene prodotta nella notte di Capodanno. La stima conservativa è che circa 60.000 involucri, pari a circa 6 tonnellate di botti e fuochi, vengono esplosi la notte di Capodanno e rimangono nelle strade, nelle piazze delle nostre città. Si tratta di rifiuti, tra l'altro, anche molto difficili da differenziare perché sono composti per il 70% da cartone, plastica, legno o argilla e il restante 30% da polvere pirotecnica, per lo più nitrato di potassio, zolfo e carbone con aggiunta di metalli pesanti come magnesio e rame. Ci auguriamo che questo comunicato sia divulgato al massimo, che venga letto e che venga recepito, ma temiamo che purtroppo gli appassionati di botti non cambieranno la loro infausta abitudine. Mi sveglio e tu ci sei per me. Mi vesto e tu ci sei per me. Ho fame e te ne vai per te. Ho lei e tu ci sei per me. Noi due in vista di un weekend senza sorriso assomigliato. Dio mio, con te a vedere un film. Vorrei venire ma non riderei mai. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh E adesso veniamo alle conseguenze sugli altri animali, con un paio di notizie che ci sono sembrate significative. In provincia di Torino, a Bottigliera Alta, i petardi hanno spaventato un cavallo che si è imbizzarrito e si è ferito in maniera grave a una zampa, così che il veterinario è stato costretto a sopprimerlo. Carolina Verardo è la titolare di un bed and breakfast di Bottigliera Alta che, oltre a mettere a disposizione degli ospiti le stanze, permette anche ai clienti di effettuare passeggiate ed escursioni nei boschi della zona all'imbocco della Val Susa. Il cavallo Tornado accompagnava le vite di Carolina e della sua famiglia da ben 22 anni, finché il 31 di dicembre, durante la notte, il rumore provocato dai petardi non ha causato un incidente fatale. La tragedia del cavallo Tornado si è consumata nelle stesse ore in cui molte famiglie erano intente a festeggiare l'arrivo del 2024. Dalle 23:30 qui in paese, racconta Carolina, sembrava di essere in guerra. Nonostante l'ordinanza comunale vietasse l'uso dei fuochi d'artificio, questi rumori forti si sono susseguiti per almeno 2 ore. Come facciamo sempre, noi avevamo chiuso Tornado, i due pony e la maialina, che è un po' la nostra mascotte nel paddock, ed eravamo lì con loro per tenerli tranquilli il più possibile, spiega Carolina. Ma a un certo punto una delle esplosioni più forti ha fatto imbizzarrire Tornado, che si è messo a saltare e ha fatto un balzo atterrando malamente a terra, anche per evitare di finire addosso a una pony. Purtroppo, cadendo, si è rotto la zampa anteriore sinistra, una frattura così grave che il veterinario ha visitato l'animale e l'ha sedato per non farlo soffrire. Purtroppo, si trattava di una frattura scomposta che non era curabile e di conseguenza è stata presa la tragica decisione di sopprimere Tornado dopo 22 anni di vita passata con la famiglia. Una morte che, per quanto insensata, i proprietari di Tornado cercano di utilizzare per sensibilizzare le persone. Almeno a giudicare dalla quantità di mortaretti e petardi usati o inesplosi che la coppia ha ritrovato nei dintorni di casa la mattina dopo, pare che la tradizione dei botti di Capodanno sia tutt'altro che in declino. Per questo, dice appunto la famiglia Verardo, ci teniamo a far conoscere la nostra tragedia. Vogliamo sensibilizzare le persone sperando che in futuro si smetta di ricorrere ai fuochi d'artificio che causano tanti danni agli animali. Che dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio tornare per ricominciare. Oh, extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh, extraterrestre, non mi abbandonare. Dal Piemonte, che è un po' l'occidente d'Italia, ci spostiamo verso oriente e andiamo a Levico, in provincia di Trento, dove nella notte del 31 dicembre una puledra, terrorizzata dai petardi e dai fuochi d'artificio, ha abbattuto la recinzione ed è fuggita. Si tratta della puledra Elodia, di 4 anni, che dopo ore di apprensione è rientrata a casa sana e salva. I suoi referenti umani avevano lanciato un appello anche sui social, ma al mattino, per fortuna, sono usciti a cercarla con un'altra cavalla. Ed Elodia era nei paraggi, ha sentito il richiamo e ha seguito queste persone che la stavano cercando fino a casa. Insomma, un grosso spavento, conclusosi nel migliore dei modi. Abbiamo noi voluto raccontarvi 2 storie di animali non umani, una finita malissimo e l'altra con il lieto fine. Noi abbiamo cercato a modo nostro di riequilibrare il grave squilibrio che riscontriamo nei media. C'è una grave sproporzione tra il valore che viene assegnato alla vita umana e quello che assegniamo alle vite non umane. Sappiamo tutto di Concetta Russo, morta da fragola per un colpo di rivoltella. Sappiamo tutto della donna 50enne colpita all'addome nel quartiere di Forcella. Sappiamo dell'uomo algerino di 50 anni colpito a una spalla da un proiettile mentre camminava in strada, sempre a Napoli. Sappiamo che un 11enne di Alfano, nel Salernitano, ha perso la vista da un occhio per l'esplosione di un petardo. Sappiamo che un 17enne a Foggia ha avuto l'amputazione di una mano, così come un suo coetaneo a Varese, che 3 minorenni a Grosseto, un 15enne a Siena e un altro a Lucca si sono gravemente feriti e hanno subito amputazioni per l'assurda, stupida e volgare tradizione dei botti. Però delle migliaia e migliaia di animali sinantropi, colombi, storni, topi, gatti, cani, che la notte di Capodanno sono stati feriti o uccisi, spaventati a morte, schiantati dal crepacuore, non sapremo mai il numero esatto. Ecco, va a loro il nostro pensiero e non smetteremo mai di agire per superare questo scandaloso ecocidio. A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo, a te che ascolti il mio disco forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo, siamo sulla stessa barca, io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Per ora la legge sulla caccia non si tocca. Lo ha deciso a sorpresa il ministro all'agricoltura, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, che ha chiesto al suo partito di ritirare la proposta di modifica della legge 157 del 92. In particolare al senatore Bartolomeo Amidei, primo firmatario dell'iniziativa depositata a Palazzo Madama lo scorso 28 giugno. Le polemiche che erano nate in questi giorni hanno spinto Lollobrigida a fermare l'assalto alla norma che regola il prelievo venatorio e che tutela la fauna selvatica proprietà indisponibile dello Stato, cioè tutti i cittadini. Non è stata concordata col governo, questo è stato l'argomento che ha usato Lollobrigida, ritirando quell'orribile proposta di legge che avrebbe consentito ai sedicenni di imbracciare un fucile e di recarsi a caccia. A far discutere quindi soprattutto all'interno dei 17 articoli della proposta di Amidei era proprio questo, cioè la possibilità di abbassare il limite d'età consentito per andare a caccia. Tra gli altri controversi punti c'era il depotenziamento dell'ISPRA, che da organo indipendente del Ministero dell'Ambiente sarebbe passato sotto la presidenza del Consiglio, la cattura a fini di richiamo di qualsiasi specie, l'allungamento di circa 2 mesi della stagione venatoria, la ridefinizione delle aree protette all'interno delle quali è vietato cacciare con una loro sostanziale riduzione. E così le doppiette che mai come nella scorsa tornata elettorale sono riuscite a eleggere i propri rappresentanti dovranno ancora aspettare, come d'altra parte stanno facendo da molti anni. L'assalto alla legge sulla caccia è rinviato. Anche se non ci facciamo illusioni su come andrà a finire la guerra, questa battaglia almeno non l'abbiamo persa. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami ancora. Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora. Dove vai? Dove sei? Mio dolcissimo amore. Quante stelle al soffitto ho contato per te. Dove vai? Dove sei? Mio sperduto, mio amore. Ogni sera al portone, se vuoi, ti aspetterò. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami, amore. Passerà presto un treno, vedrai che saprò ritornare. Torna questa settimana la rubrica di cinema curata da Emilio Maggio, che recensisce per noi Il male non esiste, l'ultima opera del cineasta giapponese Ryusuke Hamaguchi, premiato quest'anno a Venezia con il Leone d'Argento, Gran Premio della giuria, il secondo per importanza nella gerarchia del palmarès veneziano. Il male non esiste. Ryusuke Hamaguchi continua a mietere premi, giustamente direi, dopo l'Orso d'Argento conquistato al Festival di Berlino nel 2021 con il Gioco del Destino e della Fantasia e quattro candidature all'Oscar, il premio per la migliore sceneggiatura al 74esimo Festival di Cannes per Drive My Car, il filmmaker giapponese ottiene anche il Leone d'Argento all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha presentato appunto Il male non esiste, il suo ultimo film. Il film, letto molto sommariamente come un'ispirata elegia ambientalista, rappresenta soprattutto una reazione, secondo me, ai ritmi testosteronici dell'attuale narrativa cinematografica, sia nell'accostamento compulsivo delle immagini, sia nella indilazionabile imposizione di dialoghi assiomatici. La sostenibilità ecologica del film, per me, è soprattutto una sostenibilità ecovisiva. Ogni inquadratura permette allo spettatore di avere infatti il tempo di riflettere su quello che sta vedendo, anche non vedendo direttamente quello che succede nel film. La ciclicità della sequenza iniziale, per esempio di quella finale, una panoramica dal basso verso l'alto in cui il cielo e le fronde degli alberi diventano quasi indistinguibili, girata l'uno di giorno, l'altra di notte, quasi a significare l'alba e il tramonto dell'umanità, designano il vero senso del film, che andrebbe visto solo per questa magnificenza di sguardo, sguardo indifferente al significato a cui sono destinate le immagini, quasi che le immagini fossero il prodotto di uno sguardo alieno sul mondo, indifferente alle sorti progressive dell'umana specie. L'occhio del regista diventa un cineocchio privo di ogni prospettiva antropocentrica, un vero e proprio esercizio di decolonizzazione dello sguardo, uno sciamanesimo cinematografico in grado di attraversare tutte le barriere ontologiche, il soggetto umano e l'oggetto natura, ad esempio, che impediscono uno stare al mondo privo di qualunque confine, che sia quello della proprietà oppure quello altrettanto fallimentare del controllo e della protezione. Ma cosa narra il film? La storia è quella di un padre single, Takumi, e sua figlia Ana, una bambina vivace e intraprendente, che vivono isolati nei pressi di Mizubiki, un paesino immerso nel verde della prefettura di Nagano, le falde del monte Fuji. I due si trovano, loro malgrado, coinvolti in un progetto di glamping, una specie di campeggio di lusso, dall'inglese glam, pianificato da un'azienda di Tokyo specializzata non casualmente in advertising, ovvero in tutte quelle strategie della comunicazione che riguardano il lancio pubblicitario di un prodotto, di un servizio. Ovviamente l'intera comunità è fermamente contraria al progetto, insostenibile dal punto di vista ambientale, in quanto comprometterebbe la salubrità naturale della risorsa principale del sito, ovvero l'acqua che arriva direttamente dalle sorgenti montane. Takumi e Ana sono due figure che contrastano la tranquillità del piccolo centro abitato, ma soprattutto divergono dalle retoriche del greenwashing. Takumi fuma continuamente, per esempio, non dà nessuna importanza al senso della responsabilità individuale per l'ambiente, né tantomeno è attento all'igiene e alla salute del proprio corpo. Ana, sua figlia, gira tranquillamente da sola lungo i sentieri montani che dalla scuola arrivano nei pressi della sua abitazione. Takumi ha un passato oscuro, una moglie, una compagna presente solo in una foto inquadrata fugacemente per alcuni secondi. Ana è senza madre, ma ha uno speciale rapporto con la natura circostante, vede e percepisce cose che gli altri non vedono. Nella seconda parte del film Ana scompare e iniziano le ricerche per ritrovarla, in cui è coinvolta l'intera comunità. La cosa più stupefacente di questo film è senza dubbio il finale che nessuno si aspetta. La struttura quasi zen della sceneggiatura e l'andamento dilatato delle sequenze, che rimandano lo stile trascendentale di Ozu, vengono bruscamente interrotti da una esplosione di violenza immotivata. Takumi, coadiuvato da uno degli agenti dell'azienda di Tokyo, trova finalmente sua figlia. A rischio spoileraggio e linciaggio social, non posso non descrivere cosa succede nelle ultimissime inquadrature, in quanto il finale a stupire e turbare le aspettative dello spettatore. Ana è ferma davanti a una cerva uccisa da un colpo di fucile sparato da un cacciatore e al suo cucciolo. Quando il rappresentante dell'azienda corre verso la bambina, Takumi lo blocca e lo strangola. Takumi prende in braccio la bambina e si inoltra nel fitto della foresta. Stacco e panoramica notturna dal basso verso l'alto del cielo. Takumi è un pazzo che ha ucciso anche la madre di Ana. La bambina è fuggita per allontanarsi da un padre violento. Forse, molto più semplicemente, Takumi ha una visione, anzi una previsione. Il luogo incontaminato dove vive insieme a sua figlia potrebbe andare incontro a un destino ineluttabile e scomparire così come il resto del mondo. Il senso allegorico del finale viene supportato dal fatto che quando Takumi solleva Ana in campo lunghissimo, della cerba e del piccolo non restano tracce. L'importanza della madre cerba come elemento simbolico e dirimente per la sopravvivenza del nostro intero pianeta era stato al centro di uno scambio di battute tra Takumi e l'agente immobiliare pochi minuti prima del tragico finale. Il cinema dunque per Hamaguchi è una macchina previdente. Insieme al padre bisognerebbe uccidere anche il capo, il caput, l'etimo da cui deriva il capitale. Hamaguchi si conferma con questo film come uno dei filmmaker più sorprendenti del panorama cinematografico contemporaneo. Nei titoli di testa il Non compare solo dopo la scritta Il male esiste, come un'interpunzione fra le due parole. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enexanax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana e poi si addormentavano. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare una sua ricetta speciale alla Befana, un personaggio che ci piace tantissimo perché ribalta gli stereotipi legati alle donne. La Befana non è giovane, non è bella, è single, è ecologista, è femminista, non ha un uomo accanto, si autodetermina. Inoltre rivendica la libertà dalle apparenze, dalle mode imposte dai giornali, indossa capi stravaganti che sono tutti strappati, rammendati, che nessuno metterebbe più. Sorvola il mondo a bordo di una scopa, senza sfruttare animali, come Babbo Natale che sfrutta le renne, e senza inquinare con i combustibili. Non cerca poi lusinghe né facili gratificazioni, sa dire ai bambini no e porta loro i dolci, sì, ma anche il carbone se se lo sono meritati. Insomma, ha una sua pedagogia. A questo affascinante personaggio anticonformista è dedicata la ricetta Cruelty Free della settimana. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questa settimana festeggiamo e celebriamo la Befana con una ricetta veneta tipica dell'Epifania, la pinza della Marantega. Gli ingredienti per 4 persone sono 125 g di farina di mais, 250 ml di latte di mandorle, 125 ml di acqua, 40 g di olio extravergine di oliva, 100 g di zucchero di canna, 50 g di farina di farro o farina integrale, 50 g di uvetta, un cucchiaio di pinoli, 3 fichi secchi, mezza mela, 5 g di crema or tartaro, un bicchierino di grappa, la buccia grattugiata di un'arancia, semi di finocchio e anice, un cucchiaio di pangrattato e un pizzico di sale. Mettete l'uvetta in ammollo nella grappa, sbucciate la mela e tagliatela a pezzetti, tagliate anche i fichi secchi a pezzetti e uniteli alla mela. A parte, in una casseruola scaldate il latte di mandorle e l'acqua. Quando arriveranno quasi d'ebollizione, versate la farina di mais e la farina di farro, un pizzico di sale e fate cuocere una ventina di minuti a fuoco lento, mescolando con una frusta. Se l'impasto dovesse essere troppo denso, aggiungete poca acqua. Una volta terminata la cottura, unite l'uvetta con la grappa, i pinoli, i fichi e la mela, la scorza di arancia, lo zucchero, l'olio e il cremor tartaro. Mescolate ed amalgamate bene il tutto e versate in una tortiera che avrete precedentemente spennellato di olio e spolverato col pangrattato. Pareggiate la superficie, cospargete con i semi di finocchio e anice e spolverate con un cucchiaio di zucchero di canna. Infornate a 180 gradi per 40 minuti in modalità statica. Togliete dal forno e lasciate riposare prima di servire.